Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Primo timore del re d'Inghilterra Carlo I nell'apprendere la morte di Buckingham fu che una notizia così terribile scoraggiasse i roccellesi. Tentò, dice Richelieu nelle sue memorie, di tenergliela celata il più a lungo possibile, facendo chiudere tutti i porti del regno e badando scrupolosamente che nessun vascello uscisse fino a che fosse partito l'esercito allestito da Buckingham, incaricandosi, in mancanza di quest'ultimo, di sorvegliare egli stesso la partenza. Gli venne però in mente di dare quest'ordine 5 ore dopo l'avvenimento, ossia alle 2 del pomeriggio, sicché 2 navi erano già uscite dal porto. L'una portando, come sappiamo, Milady, la quale, già sospettando la cosa, ne fu del tutto certa vedendo la bandiera nera spiegata all'albero della nave ammiraglia. Quanto al secondo bastimento, diremo in seguito chi portava e come partì. Nel frattempo, nulla di nuovo al campo di La Rochelle. Soltanto il re, che si annoiava a morte come sempre, ma forse ancora più al campo che altrove, decise di andare in incognito a trascorrere le feste di San Luigi a Saint-Germain e chiese al cardinale di fargli preparare una scorta di 20 moschettieri soltanto. Il cardinale, che anche lui talvolta subiva il contagio della noia del sovrano, accordò con grande piacere quel congedo al suo regale luogotenente, il quale promise di essere di ritorno verso il 15 di settembre. Avvertito da sua eminenza, Monsieur de Tréville preparò il bagaglio e, poiché, pur ignorandone la causa, conosceva il vivo desiderio e anche l'imperiosa necessità che i suoi amici avevano di tornare a Parigi, inutile dire che li designò a far parte della scorta. I 4 giovanotti seppero la notizia 15 minuti dopo Monsieur de Tréville, perché furono i primi ai quali lui la comunicò. Fu in questa occasione che D'Artagnan poté apprezzare il favore accordatogli dal cardinale con il passaggio nei moschettieri, senza di che egli sarebbe stato costretto a rimanere al campo mentre i compagni partivano. Vedremo in seguito che l'impazienza di prendere la strada di Parigi era provocata dal pericolo che avrebbe corso Madame Bonacieux incontrandosi con la sua mortale nemica Milady nel convento di Béthune. Perciò, come abbiamo detto, Aramis aveva scritto immediatamente a Marie Michon, la cucitrice di Tours, che aveva così buone conoscenze, affinché ottenesse dalla regina il consenso per Madame Bonacieux di uscire dal convento e di ritirarsi in Lorena o in Belgio. La risposta non si era fatta attendere e 8 o 10 giorni dopo Aramis aveva ricevuto questa lettera. «Caro cugino, ecco l'autorizzazione di mia sorella a ritirare la nostra servetta dal convento di Béthune, dove pensate che per lei non spiri buon'aria. Mia sorella vi manda molto volentieri tale autorizzazione perché vuol molto bene a quella giovane e si riserva di essere utile più tardi. Vi abbraccio, Marie Michon». Alla lettera era unita la seguente autorizzazione: «La superiora del convento di Béthune affiderà all'autore del presente biglietto la novizia che era entrata nel suo convento dietro mia raccomandazione e sotto il mio patronato. Anna». Dal Louvre, il 10 agosto 1628. È facile capire quanto i legami di parentela fra Aramis e una cucitrice che chiamava la regina sua sorella avessero sbrigliato l'allegria dei giovani. Ma Aramis, dopo essere arrossito 2 o 3 volte fin nel bianco degli occhi per gli scherzi grossolani di Porthos, aveva pregato gli amici di non tornare più sull'argomento, dichiarando che se avessero detto ancora una sola parola non avrebbe più utilizzato la cugina quale intermediaria in faccende del genere. Quindi non si parlò più di Marie Michon fra i 4 moschettieri, che d'altronde avevano quello che volevano. L'ordine di portare via Madame Bonacieux dal convento delle Carmelitane di Béthune. È vero che tale ordine non sarebbe servito granché finché restavano al campo di La Rochelle, ossia all'altro capo della Francia. D'Artagnan stava sul punto di chiedere un congedo a Monsieur de Tréville, confidandogli apertamente l'importanza del suo viaggio, quando giunse a lui e ai suoi tre compagni la notizia che il re stava per partire alla volta di Parigi con una scorta di 20 moschettieri, tra i quali erano compresi anche loro. Il giubilo fu grande. I domestici furono spediti avanti con i bagagli e si partì la mattina del 16. Il cardinale accompagnò Sua Maestà da Surgère a Mosè e lì il re e il ministro si congedarono l'uno dall'altro con grandi manifestazioni di amicizia. Tuttavia il re, che cercava di divagarsi, pur procedendo il più fretta possibile per trovarsi a Parigi il 23, si fermava di tanto in tanto per cacciare la gazza, passatempo di cui de Luynes gli aveva inculcato la passione per il quale aveva sempre conservato una grande predilezione. Dei 20 moschettieri, quando ciò succedeva, 16 si rallegravano assai di tale spasso, ma 4 imprecavano a più non posso. Soprattutto D'Artagnan aveva continui ronzii alle orecchie che Porthos spiegava così. Una dama assai altolocata mi ha insegnato che ciò significa che da qualche parte si parla di voi. Finalmente la scorta attraversò Parigi la notte del 23. Il re ringraziò Monsieur de Tréville e gli permise di concedere licenze di 4 giorni a patto che nessuno dei favoriti facesse la sua comparsa in un luogo pubblico, pena la Bastiglia. Le prime 4 licenze, come è facile immaginare, furono concesse ai nostri 4 amici. Anzi, Athos ottenne da Monsieur de Tréville 6 giorni invece di 4 e in quei 6 giorni fece aggiungere 2 notti in più, perché essi partirono il 24 alle 5 della sera e Tréville, compiacente, datò la licenza a partire dal 25 mattina. «Dio mio!» diceva D'Artagnan, il quale, come sappiamo, era sempre ottimista. «Mi pare che immaginiamo difficile una cosa semplicissima. In 2 giorni, e sfiancando 2 o 3 cavalli, poco importa, denaro ne ho, sono a Béthune. Consegno la lettera della regina alla superiora e riconduco il caro tesoro non in Lorena, non in Belgio, ma a Parigi, dove sarà meglio nascosto soprattutto finché il cardinale sarà a La Rochelle. Poi, una volta tornati dalla campagna, un po' con la protezione della cugina, un po' in virtù di quello che abbiamo fatto per lei personalmente, otterremo dalla regina ciò che vorremo. Restate qui voi, non sfinitevi inutilmente, io e Planchet saremo più che sufficienti per una spedizione così facile». A tutta questa tirata, Athos rispose calmo. «Anche noi abbiamo del denaro, perché non mi sono bevuto tutto il resto del diamante, e Porthos e Aramis non se lo sono mangiato completamente. Possiamo quindi sfiancare benissimo 4 cavalli invece di 1, ma ricordate, D'Artagnan», soggiunse con una voce così tetra da mettere un brivido al giovane, «ricordate che Béthune è una città dove il cardinale ha dato appuntamento a una donna che, dovunque vada, si trascina dietro la sventura. Se aveste a che fare con 4 uomini, D'Artagnan, vi lascerei andare solo, ma avete a che fare con quella donna, ed è necessario che si vada in 4 e Dio voglia che con i nostri 4 servitori si sia in numero sufficiente». «Mi spaventate, Athos!» esclamò D'Artagnan. «Cosa temete, mio Dio?» «Tutto!» rispose Athos. D'Artagnan esaminò le facce dei compagni che, come quella di Athos, rivelavano una profonda inquietudine e continuarono la strada al galoppo senza aggiungere una sola parola. Entrati in Arras il 25 sera, D'Artagnan aveva appena messo piede a terra davanti alla locanda della Hersdor per bere un bicchiere di vino, allorché un cavaliere uscì dal cortile della posta dove aveva effettuato il cambio, imboccando di galoppo e con un cavallo fresco la via di Parigi. Dal portone stava infilando la strada quando il vento gli dischiuse il mantello in cui era avvolto, benché si fosse d'agosto, e gli sollevò il cappello che il viaggiatore trattenne con la mano nell'attimo in cui stava per volargli via, calcandoselo energicamente sugli occhi. D'Artagnan, che guardava fisso quell'uomo, impallidì paurosamente e lasciò cadere il bicchiere. «Che avete, signore?» disse Planchet. «Signori, correte! Il padrone sta male!» I tre amici si precipitarono e trovarono D'Artagnan che, invece di sentirsi male, correva verso il suo cavallo. Lo trattennero sulla soglia della porta. «Ebbene, dove diavolo vai così di furia?» gli gridò Athos. «E lui?» esclamò D'Artagnan, pallido di collera e sudato in fronte. «E lui? Lasciatemi raggiungerlo!» «Ma chi lui?» domandò Athos. «Lui! Quell'uomo! Quale uomo?» «L'uomo maledetto! Il cattivo genio che ho sempre veduto quando ero minacciato da qualche sciagura! L'uomo che accompagnava quella donna orribile quando la incontrai per la prima volta! Quello che cercavo quando provocai Athos! Quello che vidi la mattina del giorno in cui fu rapita Madame Bonacieux! Insomma, l'uomo di Meung! L'ho veduto! E lui! L'ho riconosciuto quando il vento gli ha aperto il mantello!» «Diavolo!» disse Athos sopra il pensiero. «In sella, signori miei! In sella, inseguiamolo e lo raggiungeremo, mio caro!» osservò Aramis. «Pensate che vada la parte opposta alla nostra. Ha un cavallo fresco mentre i nostri sono stanchi. Di conseguenza faremo scoppiare le nostre bestie senza avere la più piccola probabilità di raggiungerlo. Lasciamo l'uomo, D'Artagnan, salviamo la donna.» «Ehi, signore!» esclamò uno stalliere rincorrendo lo sconosciuto. «Ehi, signore! Vi è caduto un foglio dal cappello! Ehi, signore! Ehi!» «Amico!» disse D'Artagnan. «Una mezza pistola per quel foglio!» «Per vacco, signore! Con grande piacere! Eccolo qua il foglio!» Il mozzo di stalla, felice dell'occasione che si era presentata, rientrò nel cortile della locanda. D'Artagnan spiegò il foglio. «Ebbene?» chiesero gli amici, facendoglisi intorno. «Una parola soltanto», disse D'Artagnan. «Sì», disse Aramis, «ma questa parola è un nome di città o di villaggio. Armentier», lesse Porthos. «Armentier, non lo conosco. E questo nome di città o di villaggio è scritto di suo pugno», esclamò Athos. «Andiamo, andiamo. Conserviamo gelosamente il foglio», disse D'Artagnan. «Forse non ho perduto la mia ultima pistola. A cavallo, amici, a cavallo!» E i quattro si lanciarono di galoppo sulla strada di Béthune. I grandi criminali si portano dietro una sorta di predestinazione per la quale sormontano tutti gli ostacoli, sfuggono a tutti i pericoli fino al giorno che la provvidenza, stanca, ha deciso debba essere quello del naufragio della loro empia fortuna. Così doveva accadere a Milady. Ella passò attraverso le guardacoste delle due nazioni e giunse a Boulogne senza incidente alcuno. Sbarcando a Portsmouth, Milady era un inglese che le persecuzioni della Francia scacciavano dalla Rochelle. Sbarcata a Boulogne, due giorni dopo di traversata, si fece passare per una francese che gli inglesi molestavano a Portsmouth per l'odio che nutrivano verso la Francia. Milady, inoltre, aveva il più efficace dei passaporti, la bellezza, l'estrema signorilità e la generosità nel distribuire il denaro. Esentata dalle formalità d'uso, grazie all'affabile sorriso e alla galanteria di un vecchio governatore del porto che le baciò la mano, ella si trattenne a Boulogne soltanto il tempo necessario per impostare una lettera così concepita. A sua eminenza Monsignore il Cardinale di Richelieu, al campo di fronte alla Rochelle. Monsignore, vostra eminenza, si rassicuri. Sua Grazia, il Duca di Buckingham, non partirà per la Francia. Milady de Boulogne, 25 sera. Post scriptum. Secondo i desideri di vostra eminenza, mi reco al convento delle Carmelitane di Béthune, dove aspetterò i vostri ordini. Effettivamente, la sera stessa Milady partì. La sorprese la notte, fermò e dormì in una locanda, poi l'indomani, alle 5 del mattino, entrò a Béthune. Si fece indicare il convento delle Carmelitane e subito vi entrò. La superiora le venne incontro, Milady le mostrò l'ordine del cardinale, la badessa le fece dare una stanza e servire la colazione. Tutto il passato era come cancellato agli occhi di quella donna. Con lo sguardo fisso all'avvenire, ella pensava ormai solo alla splendida sorte che le avrebbe riservato il cardinale, da lei servito con tanta fortuna e senza che il nome di lui fosse minimamente implicato in quella sanguinosa vicenda. Le sempre nuove passioni che la consumavano davano alla sua esistenza l'aspetto di quelle nubi che corrono nel cielo e riflettono ora l'azzurro, ora il rosso fuoco, ora il nero opaco della tempesta e non lasciano sulla terra altre tracce che la devastazione e la morte. Dopo la colazione la badessa venne a visitarla. Nel chiostro scarseggiano le distrazioni e la buona superiora aveva premura di fare conoscenza con la nuova ospite. Milady voleva piacere alla badessa, cosa tutt'altro che difficile per quella donna fuori del comune. Cercò di essere amabile, fu incantevole e affascinò la buona superiora con una conversazione molto variata e con le grazie di tutta la sua persona. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it